140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Già da mesi, Milano. Musicista colto, partito dal rap, ora con Variazione insieme alla pianista Isabella Turso incontra la classica e scrive un libro. D'Argent Amico. Da sempre ho avuto dentro di me l'idea di provare a spostare la musica cosiddetta urban da un contesto musicale cosiddetto urbano a qualcosa di altro, che si potrebbe anche dire alto, cioè una musica, per semplificare, definita classica, quindi con strumentazione classica, pianoforte, i fiati, gli archi. E in passato avevo tentato, c'erano stati degli episodi in cui mi ero avvicinato a alcuni brani, però poi mi sembrava una cosa troppo bella per essere vera, trovarti in studio, cioè tu che sei in studio, fai le tue cose con dei musicisti classici, una pianista classica bravissima. Una sera mi è capitato di incontrare Isa, che ha sfondato una porta aperta, un'aperta a porta. Anche lei aveva questo pallino di incontrare una persona che si potesse lasciare andare su delle composizioni musicali classicheggianti, e io mi sono candidato. Io non sono mai stato così contento come in questo caso di aver portato a termine un disco, perché sai, quando lavori con così tante persone, sono alcuni momenti in cui dici non ce la faremo mai, secondo me non ce la faremo mai. E invece è andato tutto bene ed sono soddisfatto. Da cosa siete partiti? Dal passato? Dalle idee? Qual è il punto di partenza? Non c'è stata una regola nella lavorazione, però abbiamo prima lavorato ai brani, alle rivisitazioni, alle variazioni dei brani del passato, che erano brani che avevo un po' perso per strada, un po' devo dire che avevo anche snobbato, me li ricordavo peggio di come erano, soprattutto i testi. Quindi poi riguardando le cose mi sono trovato le mani e dicevo, ah, però questo perché l'hai maltrattato così? Perché te lo sei dimenticato? Non c'è qualcosa, qui voleva dire qualcosa. Non c'è stata una regola, ma c'è sempre stata la medesima magia nella creazione dei brani. La sensazione è che mentre il pop o addirittura il rock comincino a guardare l'hip hop e il rap, tu che sei stato uno dei primi a portarlo in maniera onesta e sincera in Italia, invece continui, non è la prima volta, ma continui invece a guardare al di là, cioè non ti basta più. Perché? Ma perché io, non, almeno dal mio punto di vista, che è quello anche personale ed umano, è molto personale, un po' meno umano, ma comunque molto personale, il percorso musicale è più legato ad un percorso di ricerca davvero personale, di domande, di domanda che mi pongo. Quindi è difficile che prima di mettermi a lavorare ad un disco io pensi al genere, pensi alla collocazione. Anche perché ho la necessità di rimanere focalizzato sull'idea di partenza, e se comincio poi a pensare alla destinazione, al pubblico, al genere, sai, ho solo un cervello, poi la CPU mi si intasa e non riesco più, o faccio una cosa o faccio l'altra. Però io credo che l'avvicinamento, anche un po' tardivo, all'hip hop, fatto dagli artisti anche italiani, dai big, sia comunque sincero adesso, cioè le persone hanno effettivamente avuto le prove che questa musica non è una musica per forza leggera e, tra virgolette, di consumo, ma può anche raccontare delle storie importanti, come forse, diciamo, un certo pop italiano non faceva più da molti anni, ecco, quindi questo può essere da stimolo. Non ho fratelli all'infuori dei menabrea, di buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta sono in apnea. Più di una volta ho fatto la domanda per un prestito, ma la banca non mi reputa abbastanza onesto. Fanculo, avevo solo quello io, avevo solo la mia buona idea. Una con lo zucchero di canna, l'altra. Una con lo zucchero di canna, l'altra. vedo due zuccheriere sopra il bancone, una con lo zucchero di canna, l'altra, una con lo zucchero di canna, l'altra, una con lo zucchero di canna, l'altra, vedo due zuccheriere sopra il bancone, una con lo zucchero di canna, l'altra. Qualsiasi consulente globale ti dirà che in linea generale qualsiasi ventenne che ha in mente un affare non va mai, si rivela fallimentare. Può anche darsi che abbia ragione se si riferisce ad altri e non a me, perché dalla mia creazione... E scrivere nel senso di far diventare la tua parola racconti? Per quanto riguarda i racconti del libro, nasce come tutte le canzoni da immagini che vedo, dialoghi che rubo, parole che mi sembra di capire, e poi da lì costruisco, chiaramente riferendomi all'unica vita che conosco bene, che è la mia. Però la differenza effettiva è che io, quando scrivo sulla carta, mi lascio guidare da quello che succede sulla carta, invece nelle canzoni tendo ad essere un po' più controllato. In questo caso, nel libro, è facile trovare poi degli elementi, delle parole, dei passaggi mentali che si trovano nelle canzoni, ma in musica, quindi rispettando altre regole. Quello che scrivo nasce tutto dalla stessa sensazione. Non credo in questi cambiamenti degli artisti, sono superficiali, ma poi il fulcro è sempre il medesimo. Cioè, trovi la stessa luce in tutte le canzoni di un artista, in tutte le poesie di un poeta. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Dargen D'Amico. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.